Dunque, nuova puntata di Radio Talk, quinta puntata di Radio Talk, sempre qui nella sede centrale di Radio Luz, l'unica sede di Radio Luz. D'altronde il nostro regista c'ha ancora sonno, ne ha ben ragione. È ritornata qui a trovarci Alessia. Buonasera Massimo. Dopo che ha dato forfè settimana scorsa. Perché hai dato forfè settimana scorsa? Impegni più importanti di questo, diciamo. Ah, grazie. Prego. Già, lo sai che c'è un grande rispetto nei tuoi confronti. Sì, ci mancherebbe. Ma ti dirò che ho trovato una grande partner, un grande partner. Ci purtroppo vi ho ascoltati e devo dire che siete andati meglio senza di me. Quindi preoccupati. Non è che perdo il posto di lavoro, vero? No, ci questi mancherebbe. Questi 3.400 euro che prendiamo questi al mese. Questi 3.400 euro te li stai suvando. Vabbè, veramente. Tu ne prendi molti di più. Sì, io ne prendo molto di più. Esperienza, perché... una puntata in più di me. No, c'è proprio il sindacato che viene qua... giorno per giorno. A sgangiare, sì. Come ti pagano? Settimana per settimana? Mi pagano in rubli. Ecco. Sì, come pagavano Fantozzi. Alla BCC sì. Di Bisignano. Sì, certo. No, vado a quella della sede centrale a Rende, no? Rende, perché d'altronde si dice per fare del Rende una squadra vincente. Dobbiamo fare sempre i saluti. Come sempre c'è Umre, c'è Mario, ci sono anche tante persone che ci ascoltano, come ogni puntata. E bisogna ringraziare anche tutti quelli che ci hanno seguito alla casa di cura di riposo agli ospedali la scorsa puntata. Gli ammalati, le persone sole, chi si deve fare la puntura in questo caso. E tutto il mio parentato. E tutto il suo parentato. In linea e nonostante... l'assenza del suo parentato settimana scorsa, abbiamo raggiunto comunque un risultato più che discreto, penso. Avete nella anche scorsa sforato. Puntata. No, io dico personalmente, perché c'avevamo l'Italia come concorrenza, c'avevamo Colorado, ma d'altronde noi, come ti ho detto, la curva di Gauss. Italia massimo maneggio 0-3. Certo. Sì, 3-0 come il sindaco di Catananuova, no? Che qualcuno ricorda. 3-0 per me. Segnato Marchisi, invece io ho fatto segnare Giuseppe con addio a Bizzoffo. Dunque, partiamo subito con la puntata tematica. D'altronde per 2-3 settimane faremo così, un po' l'attualità la accontoniamo, c'è un periodo tutto particolare eccetera eccetera, facciamo le nostre puntate tematiche, dobbiamo sperimentare, quindi perché no, ci buttiamo questa qua. questa sera tema del cartone animato per eccellenza, i Simpson. Ecco, i Simpson e i derivati dei Simpson. Dunque, tu hai mai visto i Simpson? No, c'è la faccia gialla con i Simpson. La faccia gialla, sembro Lisa, non sono studiosa come lei. No, però... non c'è i capelli a riccio, diciamo. Potrei sempre farli. Me lo auguro per te, anche se non saresti chissà tutta quella bellezza. Grazie. No, sei no, sempre lo, così lo, buono. Lo dico per te, non è che. Anch'io ci ho provato a farle a riccio, ma guarda, le differenze. Dunque. I Simpson, The Simpson, popolare sitcom americana del fumettista Matt Groening degli anni 80. Sei americanizzato. No, ma solo in questo caso. Lo ricordo Matt Groening quando aveva fatto le prime puntate. Cioè veramente Homer c'aveva un... come si dice? Un gangolaro, come si traduce? Il mento, gargarozzo. Il gargarozzo che è veramente come un cavallo c'aveva. Si muovevano in modo strano, in avevano modo delle strano. Facce strane, parlavano in modo strano. Parlavano in modo strano, soprattutto sì. Lisa, che continua anche oggi ad avere una voce molto strana. Sì, ma è tutto il personaggio strano. Comunque, la famiglia americana, i cinque personaggi principali. Homer, Marge. Sì, le sai. Sì, Lisa, sai, come si chiama il piccolo? Bart. Bart, sì. Bartolomeo. Quello simpatico come una scopa di saggina, sì. E poi la... quella la piccola Maggie, ciuccia. L'inutile, quella pagata senza far nulla, insomma. Come no? Che in una puntata si è scoperto che molto probabilmente era figlia di qualche alieno. Ah, sì. Poi sulla Terra. Le paure che facevano 9 anni sono arrivate alla 20ª edizione. No, diciamo che questo è uno dei cartoni più seguiti al mondo. Ecco. Perché? No, non so neanche io il perché. Perché comunque non è un cartone per bambini, possiamo non è dire, proprio per bambini, non è proprio bambini, per adulti, ma però tratta dei temi molto importanti. È un giusto mix. Devi sapere che molte persone, genitori, anziani, pensano che sia un cartone stupido, senza significato, ma in realtà non hanno compreso che trattano temi molto importanti. Anche perché magari in modo... tra i fedelissimi dei Simpson, perché poi rischio di dimenticare questa cosa, c'è il nostro Alberico. Ciao Alberico, Alberico buonasera. Salerno, non ti avevamo perde, notato. Non è lui. Ah, non è lui. Non è lui. Il nostro regista qua, Luca Muoio, passato per caso. No, buonasera, è il nostro regista. Perché lo conosciamo al vostro, sì, non sì, è il sì. Mio. Magari è dietro. Ma lo salutiamo ugualmente. Non lo sappiamo, sì. E diciamo che in Italia sbarca su Canale 5 le prime 5 serie. per poi andare improvvisamente nelle reti locali, Telenor Brasilia e Junior TV, che ha il grande merito di aver lanciato Dragon Ball. Su Dragon Ball non farò mai una puntata. Perché? Sognatevelo, che è un cartone stupido e lo odio. Cioè, così, tra. E poi passa Italia 1 e Fox, dove c'è tuttora. I doppiatori italiani, bisogna dare una menzione a Tonino Accolo, che ha fatto solo questo nella sua vita. La voce ha fatto di solo Do. Sì. Liu Bosisio, Marge, che la ricorderai in un storico film italiano. Non saprei. Era la moglie di Fantozzi, la prima moglie di Fantozzi, nei primi due Fantozzi, se non mi sbaglio. E poi litigò di brutto con Paolo Villaggio e fece una battuta a questa moglie di Fantozzi dicendo che praticamente aver partecipato a due film aveva proprio impedito la sua partecipazione a Playboy. Pensa tu, una bellezza. Sì, Lubio Sisio, che ha insegnato a Marcia ad abbaiare praticamente, che va quasi sulla baia. E a cucinare, sì. E poi due doppiatori dei bambini, Ilaria Stagni, per Bart Simpson, sì, che è una voce odiosa, assicuro, così come odioso il personaggio. E Mark Ward. Lo odi tu, solo tu lo odi. Ma no, c'è uno che lo ama, Bart Simpson. Per esempio. Perché? L'unica al mondo, probabilmente. Perché? È stupido, è cretino, è ignorante. Cioè, no, è l'unico intelligente della famiglia. Ma che intelligente? È più furbo. Ma per cortesia. A scuola non studia, va sempre avanti nella vita. È un mammone, è un mammone. Ha comprato addirittura... Ha comprato una fabbrica a un dollaro. Cioè, è crollata il giorno dopo. Sì, ma questa sì, è una storia a parte. Questa è una storia a parte, perché se ci mettiamo qua a raccontare l'episodio dura una nottata. Poi Monica Ward, che ha origine calabrese, ogni tanto si vedeva in quel di Ponderate Unical. Tra parentesi, una volta gli hanno fatto trovare uno scherzone, non a Ponderate Unical, ma in un'altra radio, a Monica Ward. Gli misero un cuscinetto di quello che fa le pernacchie. Tieni presente? No, il nostro regista così, perché sa che prima o poi farà anche questa fine. Ma prima di concentrarci con la canzone del primo blocco, dobbiamo espletare la punizione divina di Pietro Rilanci, che pensavo che me ne ero dimenticato, invece no. Anche in questa occasione metteremo 3-4 frasi della Juventus. Cara Alessia, leggi questa qui di Fabio Capello. La Juve è la Juve, deve stare sempre in alto. Ah, Vishnu, come direbbe. Prima botta della serata. Prima botta della serata. Fin quando non finiscono le frasi, Pietro Rilanci è come se ha gli arresti domiciliari in questo programma. Abituati. Dunque, io direi, caro Pietro, di mandare la prima canzone d'antan proprio. Sì, in questo caso. Mandiamo la prima canzone e poi ci ritroviamo tra...